Allora, eccoci, possiamo iniziare con la presentazione di Quando il fumo si dirama con Federico Rabogno, che è qui, Sulema, autore. Siamo molto contenti come scoop di poterlo fare, perché tra le tante cose, Federico, quando c'è stato bisogno all'interno della tua trasmissione, ci ha sempre sfidato, ci ha sempre intercettato, anche di tua spontanea volontà quando trovi qualcosa di interessante di cui voler parlare, quindi non eravamo sempre noi a doverti rincorrere, questa cosa è molto bella. E ci andiamo a fare un paio di premesse. La prima è che io e Federico veniamo dallo stesso quartiere, la stessa zona, lo stesso quadrante, che è un po' distante da Scoop, ma che comunque rispetto anche all'area del Tuscolano può anche affinità ci dopo avere, e soprattutto abbiamo fatto la stessa scuola. Leggendo le tue descrizioni di quello che accadeva a Manara, questo liceo classico di Monteverde, una scuola comunque piccola, una sorta di paesotto dove si conoscevano un po' tutti, fa impressione poi notare come la similarità mi rispecchiamo molto in quelle pagine in cui erano i primissimi momenti in cui iniziavamo a maturare una qualche forma di interesse alla vita pubblica, alla vita politica, se anche sono gli anni in cui si iniziava poi dal quartiere a spostarsi a conoscere la città in qualche modo. Quindi questo per forza, e quindi anche come tu dici nel tuo libro, sono stati i primi momenti in cui iniziavi a maturare una forma di consapevolezza. Di interessamento anche alla politica. Interessamento alla politica, esattamente. Per me posso dire che è stato lo stesso, ma, e questa è la seconda premessa, forse qualche piccola cosa precedente l'avevo avuta quando ero molto piccolo, semplicemente ascoltando Radio Andalusia in macchina con mio padre quando ci si spostava. Perché ascoltando quei GR ti rendevi anche un po' conto della differenza rispetto al telegiornale o altre cose. Quindi sono contento di poter parlare di questo perché ci leggo queste cose. Anche Sulema è una vicina di quartiere. Oggi Monteverde Russa. Club Monteverde allo scolano. Ci sono tantissime storie di più di 30 anni, no? Tu dici momenti di una vita tra politica, arte e cultura partigiana. Però mi sento di poter dire, poi qua se poi smentisci, che questo libro è tutto fuorché una serie di aneddoti uno dopo l'altro. Perché è vero che vengono presentate tantissime vicende, ma secondo me, no, appunto, le narrazioni in qualche modo prese, che poi una volta si esauriscono le pagine del singolo capitolo, allora evaporano, ma rientrano tutte in una sorta di concetto generale, perché ci sono delle caratteristiche dentro le quali sono incasellati forse un po' tutti quanti, perché secondo me c'è una storia di fondo al di là di tutte le vicende che si ripercorrono per oltre 30 anni, che è un po' anche il modo di affrontare le singole vicende, di viversele in un certo modo, di osservarle anche dall'esterno, che poi è la scelta narrativa di questo libro, che è una scelta, nonostante una autobiografia, viene parlata, raccontata in terza persona. Infatti tu stesso all'inizio dici di aver avuto delle riflessioni, delle scelte da dover fare su come narrare tutto quello che avevi in mente e che avevi vissuto. Quindi la prima forse questione, domanda, anche forse un po' banale, non lo so, però è questa: se tu avevi in mente comunque e avevi già all'inizio la volontà di pensare un testo che poteva essere in qualche modo anche qualcosa di un indizio storico, in qualche modo una fonte per molte persone, anche come me, che si sono trovate a trovare qua dentro il libro delle cose che aveva soltanto sentito parlare, narrazioni di movimenti e quant'altro. Quindi se questa volontà di essere anche una sorta di libro consultivo, mi viene da dire, di andarsi a rivedere le cose, c'era all'inizio oppure è venuta strada facendo con l'espediente anche della terza persona? Tanto è un piacere trovarti qui e essere in questo spazio, sì, che ho seguito in diverse questioni, per diverse iniziative, su mia iniziativa, perché mi interessava tutto ciò che riguarda le proposte culturali, sociali e politiche di spazi occupati e autogestiti, come in effetti poi sto facendo per le presentazioni del libro, mi sto dedicando a questo tipo di spazi. Mi piace proprio il confronto anche con le varie anime che vivono Roma con questo tipo di approccio. La scelta della terza persona è venuta proprio automatica. Chiaramente ho pensato a chi potesse essere indirizzato il libro. Ho avuto anche molte perplessità sull'utilità, per cui non sapevo se avesse davvero un senso scrivere un libro e chi potesse interessare. È chiaro che è rivolto a più giovani di me, perché non solo poi io nello scrivere ho avuto come riferimenti che mi hanno aiutato nella memoria persone che hanno condiviso con me pezzi di percorso o che sono raccontati in quelle pagine. Per cui, avendo come obiettivo questo, di dare un piccolo contributo su quello che sono stati quegli anni, a chi quegli anni non li ha vissuti per ragioni anagrafiche principalmente. E quindi lo stile, ho fatto molta attenzione che potesse essere il più semplice possibile, non politichese, tra virgolette, e fruibile anche da chi non ha un'infarinatura politica. Mi ha fatto riflettere questa cosa che dicevi, che non sono semplici tasselli, perché in effetti poi sedimentano, ognuno sedimenta a modo suo e nella progressione poi del racconto viene fuori un mondo che non è solo quello mio, è quello che hanno vissuto migliaia e migliaia di persone. E quindi sì, secondo me stratificano poi quelle che sono non solo le scelte ma anche le pratiche e gli ideali che hanno mosso il mio agire. Buonasera, grazie di ospitarci qui. Io mi chiamo Sulaima e sono un'avventrice della libreria di Federico. Fondamentalmente ci siamo conosciuti lì. In realtà ci siamo conosciuti prima, poi te lo dirò. La cosa che si lega a quello che stavate dicendo è proprio una delle cose che ho detto all'inizio, ed è quella relativa proprio alle scelte, in cui tu dici: le scelte, se per la propria vita non si immagina un progetto, un obiettivo, sono le scelte prese o mancate a tracciare un percorso. In ogni caso, col grande privilegio di averle a disposizione, perché in sintesi la libertà è poter scegliere. Di scelte ne hai fatte tante, nel senso, nella vita hai scelto anche un percorso internazionalista, hai scelto un percorso politico, hai fatto anche delle scelte di pratica politica, a volte più determinata, a volte più pacifica e meno determinata, che hanno avuto anche delle conseguenze, no? E mi domandavo, rispetto a tutte queste scelte che tu hai operato, c'è qualche rimpianto, qualche rimorso, qualche cosa che a guardare indietro forse non avresti fatto, avresti fatto in modo diverso negli anni, in generale, rispetto alla tua attività politica, chiaramente? Beh, quello è inevitabile. Cioè, inevitabile. Puoi raccontare qualcuno? Perché facendo cose si fanno anche tanti errori, l'importante poi è non ripetersi nell'errore. Non essere diabolici. Per cui sì, però poi chiaramente fai un bilancio. A me piace tanto quella... la dedica del 1 maggio 2018 del Forte Prenestino a chi non ha mai vinto, a chi non è mai vinto, perché sicuramente è una storia contrassegnata da tante sconfitte. Ripensando per esempio al capitolo occupazioni, io vengo da 5 centri sociali di cui non esiste più traccia. Per dire, uno è diventato un supermercato e un altro sarà poi una delle grandi opere che rivoluzionerà Roma ai mercati generali. Anni che dovrebbe farlo. Il mercato, un altro è un albergo, figurati, insomma. Sì, cioè. L'unica cosa buona è stata il primo centro sociale a Scatasuna, che erano dei prefabbricati, tra l'altro dentro la villa, chissà come gli è venuto in mente di costruire i prefabbricati dentro i Panfili, e comunque quello almeno è tornato prato, hanno raso al suolo il centro sociale, ma quantomeno è nuovamente di fruizione pubblica in un contesto diverso. Però poi ecco, se faccio un bilancio, metto insieme tante piccole sconfitte, ma poi ci sono anche cose importanti che hanno fatto anche storia. Parlo soprattutto del processo PRIP che ha scritto la storia. Invece c'è stato l'anniversario adesso. Sì, dal punto di vista anche della giurisprudenza, poi magari lo spieghiamo. E però, ecco, se metti insieme tutto quanto, guardandoti indietro, dici sì, però tutto quello che ho fatto fa di me quello che sono adesso, e quindi ben vengano anche tutti gli errori e tutte le cazzate che inevitabilmente si fanno, dai 20 anni in poi, insomma, se ne fanno. Quindi sì, il bilancio comunque è positivo, sicuramente avrei fatto tante cose in maniera diversa, o non le avrei fatte proprio, o ne avrei fatte altre, però alla fine il bilancio che conta è che sono contento del mio percorso e di quello che sono adesso, sono soddisfatto se tutto questo mi ha portato ad essere questo. Le pagine sul racconto del caso Brick, come dici, poi formano non solo un successo, ma anche una cosa innovativa su come avviene questo successo. E tu che, diciamo, racconti come dopo mesi in cui lo segui, ti ritrovavi qua nel momento decisivo dall'altra parte del mondo, no? E quindi tramite un telefono cercare la Chavas di capire come stesse andando, e quindi con le testimonianze delle persone che erano rimaste e che avevano serragliato, no? la corte per tentare di avere una soluzione, perché non lo si voleva far uscire dopo una sentenza abbastanza scandalosa, esatto. Sì, diciamo che la cosa bella, no, è che appunto non è una serie di aneddoti, e quindi ti rimane tanto di questa città, tanto delle fatiche di questa città e anche delle lotte, delle mobilitazioni, però insomma ogni tanto, no, si apre qualche pagina di grande respiro internazionale, appunto. Io ho trovato paradossalmente, no, in questo momento storico poi, in cui tantissimi giovani si ritrovano con questo fatto, no? Che tra qualche mese ci sarà questo grande incontro con questo arrivo della carovana. Se arrivano. Che se arrivano. Questo mito, diciamo, io forse lo sento da tantissimi anni, ma mi mancavano poi anche appunto delle coordinate precise per intendere il rapporto di questa città con lo zapatismo, per dire, no? Quindi sono stato contento anche di aver trovato questo. Ritornando alle occupazioni, qui più che un supermercato rischiamo di farla fine di appartamenti di lusso e qualche studentato sempre, perché anche qui appunto lo scuola sarà il prossimo luogo di riqualificazione di questa città, infatti che diciamo piace usare questo termine all'amministrazione. Scusate, ti interrompo, ma la riqualificazione alla fine è difficile che sia virtuosa rispetto alle esperienze che sono state sgomberate. Io invece volevo fare una domanda proprio sul fatto che questa serie di eventi che vengono descritti sono legati a una doppia cosa. Da una parte l'interesse, la curiosità che deriva anche dal lavoro che intendi intraprendere, dall'altra però è un lavoro che poi non si esaurisce mai nei luoghi occupati in cui uno cresce, si forma e quant'altro, ma anche una continua ricerca poi anche all'esterno, nel senso, le pagine in cui si racconta proprio questo sentimento di andare a registrare i concerti negli spazi ma anche altrove, quindi questa anche necessità di in qualche modo di fare comunità anche all'esterno degli spazi occupati, che diciamo questa è anche una domenica, tendiamo sempre a vederle come delle isole molto, molto felici, e forse per questo poi abbiamo anche bisogno di andare dalle altre, di andare a fare rete. Ecco, l'importanza anche del fare comunità e applicare anche una pratica effettiva, esterna, oltre al lavoro in radio, di redazione, per dire, il fatto di dover andare a vedere di continuo quello che succede è una cosa che c'è continuamente in tutto il libro, sia dagli anni giovanili a quelli finali, insomma. È una cosa che personalmente mi ha un po' sorpreso, perché spesso, no, ti trovi a relazionarti con questa difficoltà ad andare a perseguire le proprie curiosità dell'esterno, almeno mi sembra di trovare. Mentre invece io sento, leggendo le pagine, proprio un prurito forte, una forte energia vibrante nel ricercare continuamente, e quindi nel cercare di far fermentare comunità dentro e fuori da dove ci si trova. Diciamo che le esperienze nei centri sociali sono state quelle che mi hanno formato come esperienze collettive, in cui tu eri parte di un gruppo e insieme si facevano cose. E questo è stato quello che mi ha formato. E poi tutto è proseguito in radio, perché la radio è la realtà che più di tutte le occupazioni mi porto dietro dal 95, siamo ben sopra i 20 anni, e che è comunque una radio autogestita, quindi ha gli stessi presupposti da cui partivo io, molto simile come realtà, come funzionamento a un centro sociale, qui c'è l'assemblea di redazione del lunedì sera che decide il palinsesto settimanale. La grande palestra del centro sociale è che tutti e tutte devono saper fare tutto e in qualsiasi ambito, e questo vale anche per la radio, perché dall'aprire la porta a rispondere al telefono, ad andare in diretta alle iniziative per l'autofinanziamento, quindi la sottoscrizione, a montare il palco, quindi queste sono state le mie due grosse palestre. La radio continua ad esserlo, anche se da remoto, perché dalla scelta di interrompere quasi 3 anni fa, però poi sono stato convinto a rimanere, vado registro non è la stessa cosa, perché chiaramente la presenza fisica e la diretta sono due cose che uno perde, però insomma sì, secondo me la comunità è la cosa che ha contraddistinto tutto il mio percorso, e relazionarsi agli altri è quello che ti fa crescere ed è quello il patrimonio che comunque continua, perché a Roma gli spazi occupati e autogestiti non sono così tanti come erano nel decennio dei 90, in cui Roma ha rappresentato un'avanguardia anche a livello internazionale per tutto quello che si è mosso. Ripeto sempre questa cosa, che è uscito poco più di un anno fa un'antologia che si chiama Detonazione, un volumone così con i contributi vari, e ti rendi conto che Roma è stata a livello di fanzine, quindi riviste, a livello di radio autogestite, a livello di spazi occupati autogestiti, le feste, quindi tutti i fenomeni musicali, dal rap alle posse, dai sound system e il reggae ragamuffin, ai rave, illegal rave, sono esplosi proprio nel decennio 90. Quindi sì, sono parte di una comunità ed è stata la comunità a fare la forza del mio vissuto. Mentre parlavi, no, della gestione della radio e di come sia assolutamente sovrapponibile alla gestione di un qualsiasi spazio sociale che noi appunto gestiamo e frequentiamo, secondo me però una differenza c'è. È vero che gli spazi sociali sono dei luoghi dove si può fare sperimentazione culturale, dove si è fatta tantissima sperimentazione, sono stati luoghi dell'underground, teatro, di scene, di tutte le arti possibili e immaginabili, oltre ad essere i luoghi dove si fa politica e dove si faceva e un pochino si continua a fare conflitto rispetto comunque agli anni 90 e ai primi 2000 fino al 2015, forse Genova, diciamo, è stato anche un po' più un momento complicato. Ma al di là di questo, spesso anche parlando tra compagni e compagne, alcune delle difficoltà sono quelle di raggiungere le persone al di là dei propri spazi, no? E la comunicazione verso l'esterno, perché in qualche modo intercettare la comunità del territorio all'interno della quale sta lo spazio sociale è un tema sempre importante, perché in realtà se tu vuoi non riqualificare come fanno con i grandi magazzini e i residence, ma riqualificare nel senso dando della qualità a un territorio, diventa molto difficile, perché comunque si è sempre visti come dei brutti e cattivi e c'è sempre questa specie di lettera scarlatta, mentre la radio ha la possibilità di raggiungere una quantità di persone che non è neanche quantificabile. A cui si è aggiunto anche lo streaming. A cui si è aggiunto lo streaming, esatto, cioè nel senso tutto ciò che viaggia in modo non materiale in realtà raggiunge molte più persone molto più rapidamente, quindi è un amplificatore enorme delle proposte culturali che si fanno. Quindi secondo me è una differenza reale a livello di gestione, sicuramente le cose sono sovrapponibili, però ha una capacità che gli spazi sociali purtroppo, dico, non hanno, e quindi anche lì la fatica spesso che si ha è quella di intercettare le persone che vivono nel territorio, di coinvolgerle, di renderle partecipi, parte attiva della loro vita e della loro vita di comunità, perché la comunità noi la consideriamo anche come una comunità che è la nostra, però poi ci parliamo sempre addosso, se no il rischio è sempre quello. Invece la sfida è sempre quella, no, di raggiungere altre persone per potersi confrontare, non solo per, tra virgolette, insegnare, perché noi abbiamo capito tutto, ma semplicemente per potersi confrontare con persone che hanno vissuti e opinioni diverse, ma finalmente poter avere un confronto diretto. E credo che la radio in questo sia e abbia questa possibilità enorme. Il tema della comunicazione rimane un tema sempre molto oltre cruciale. Al fatto che deve funzionare quasi per 24 ore, uno spazio autogestito, no, è certo, un po' più slow, certo, e un po' più easy. Certo, però nelle giuste differenze. Sì, rispetto, ecco, al quartiere in cui gli spazi si ritrovano, la grande lezione viene dai movimenti degli anni 70, per cui si intercettavano quelle che erano le battaglie di tutti sulla casa, sul lavoro, sui servizi, per cui a Roma il movimento di lotta per la casa è una realtà importante che fin da decenni fa ha Adesso le occupazioni sono sempre più difficili, da quello che sento in giro, anche per rispetto alle occupazioni delle case. C'è una lista di sgomberi. Sì, è una lezione che il potere ha ben capito, quindi ti colpiscono in partenza proprio. È difficile che una nuova occupazione abbia un po' di vita in prospettiva. Lo dicevamo prima, no? 2 ore bastano a te sgomberano, appena ci provi. E quindi anche rispetto alla pandemia, tutte le iniziative degli spazi occupati, sia rispetto alla raccolta dei beni, che l'assistenza, che l'informazione anche rispetto alla sanità, continuano a essere, ecco, dei momenti importanti anche di condivisione rispetto al quartiere, che vengono comunque da un percorso spesso neanche consapevole, però perché molti sono giovani, non sanno cosa è successo, però insomma è quello il terreno sui servizi anche che mancano. Certo, quelle devono essere anche battaglie, non è che tu puoi fare supplire alla mancanza, alle carenze dell'amministrazione. Io volevo procedere cambiando leggermente, perché in realtà è un cambio in qualche modo positivo, nel senso, rispetto a quanto stiamo dicendo, anche per fare un minimo una sorta di provocazione che mi è venuta spontanea leggendo un paio di pagine. Tu a un certo punto racconti come, tramite l'amicizia di una persona che non vedi da un po' di tempo, ti capita di andare a trovare in un posto che è fuori Roma, sul lago, in un convento, no? E ex convento, giusto, una recitazione importante, dove ti ritrovi poi ad un certo momento della tua vita a passarci molto tempo, almeno quasi tutti i weekend, no? Sì, qualche anno. Ecco, questa cosa mi ha colpito, perché un po' parli pure dell'atmosfera rurale, del tipo di ritmo pure di vita che ti trovi a vivere in quel posto e a passarci del tempo. Ecco, nel corso di tutto il libro, tutta questa serie di aneddoti, che non sono aneddoti, mostrano proprio un ritmo molto particolare, abbastanza frenetico, no? E anche molto musicale, dato un tipo di musica che si ripercorre costantemente nelle narrazioni, che emerge, che è proprio descrittivo dei sentimenti e delle emozioni che si vivono in quegli anni, molto forte. Mentre invece quelle pagine fanno un po' da contraltare in qualche modo, anche proprio a livello acustico, cioè i suoni sono differenti. E la cosa che mi ha sorpreso, no, è che poi effettivamente tu li descrivi, no, come è stato il periodo, comunque i giorni più belli della tua vita, c'è proprio questa frase. Quindi questo volevo chiederti, un po' il gioco delle sonorità differenti, che a me, quanto insomma, mi interessa molto di queste cose, e poi se effettivamente, no, magari queste sono le idee differenti. Nell'ex convento hai trovato questa pace proprio perché forse venivi da un po' di sovraccarico, tanto acustico quanto ritmico, no? Del tuo corpo sobbalzato da una parte all'altra della città a registrare ogni tipo di cosa. Alla fase convento stiamo parlando del 2000 e passa. Quindi comunque il grosso l'avevo dato, nel senso, avevo 40 anni, sì. Sì, è stato un progredire, perché quella situazione in quel momento era quella che mi si confaceva. Anche con tutto il retaggio del passato, perché comunque ho ricreato lì una comunità, perché lì eravamo un gruppo molto variegato, che si ritrovava spesso nel fine settimana in grandi occasioni, come la raccolta dell'uva e la raccolta delle olive, e quindi comunque aveva i presupposti, e quindi era un altro tipo di spazio sociale, non era un'occupazione, però insomma le caratteristiche erano quelle. Le occupazioni precedenti, chiaramente lì la colonna sonora era quella che ti ho detto, quindi dal rap al ragamuffin alla techno per quanto riguarda i rave, e lì invece c'era l'ascolto della natura, ma tutto compatibile, perché non lo so, forse è la mia caratteristica, però insomma riesco a vivere bene in qualsiasi contesto, quindi dall'occupazione della vita un po' più frenetica al convento nella pace rurale. Ti adatti bene ai contesti sono tantissimi e in continua poi evoluzione uno dopo l'altro. In particolare, questa domanda te la devo fare per forza, che sono le pagine in cui forse trasuda più sentimento, sono il contesto poi del carcere. La cosa che mi ha sorpreso di più non è tanto forse la descrizione di quegli 8 giorni dell'incontro con le persone con cui condividevi la stanza, ma soprattutto gli attimi precedenti, la descrizione del trasporto, no, fino alla questura, quindi cosa vedevi dalla macchina, il fatto che appunto anche tuo padre quel giorno per caso si trovava nel momento in cui passava, e soprattutto che è avvenuta a un'età comunque molto giovanile, perché parliamo appunto del periodo Monteverde, con una scatola sola. 92. Ecco, la cosa che a me mi ha sorpreso, forse, e questa è una sensibilità mia, leggendo il libro, io quelle pagine ho notato proprio, nonostante fossero appunto degli inizi, diciamo, una ricchezza di dettagli che ci sono anche in altre parti del libro, ma che in quel momento, insomma, mi è arrivata particolarmente forte, come se fosse molto più messa a fuoco, no, di tante altre questioni che comunque hai detto bene, però lì mi è arrivata proprio la botta. Sì, anche ovviamente quando sei dentro i racconti poi l'emozione del sentire compagni che hanno organizzato il concerto per il risotto, il fatto che dal giorno dopo è diventato un po', non dico lido, però insomma avevo preso le simpatie delle altre persone dentro la struttura, perché avevano visto come ritmicamente dalla finestra ti relazionavi con quanto succedeva sotto. Ma le parti immediatamente precedenti, come tanto la scoperta del pretesto con cui vi hanno preso che vuoi dirci qualcosa, quanto soprattutto poi tutti i trasporti, tipo il rumore dei cancelli, la descrizione dei corridoi, eccetera, che poi è una tematica di cui abbiamo sempre poi poche testimonianze, nonostante si cerchi poi col lavoro della radio soprattutto, ma tante anche associazioni, nonostante questo poi rimane sempre un argomento tabù, come quello che è successo in pandemia, per dire che avevo dei riscontri incredibili. Che adesso stiamo vedendo. Adesso si inizia a vedere qualcosa, però su cui c'è sempre un grosso silenzio. Invece quelle pagine avevano un'esperienza diretta, come non le altre, però a distanza di anni, vedere come si raccontano quelle cose di quando si era così giovani, è un po' preso, ecco. Spiego anche a chi ci ascolta che è un diario, ma a posteriori. Io ricostruisco delle vicende a 20-30 anni di distanza. Ed è, come hai notato tu, un diario emozionale, per cui il momento del carcere è un momento traumatico e quindi lì escono fuori anche i dettagli, perché ricordi tutto perfettamente. E venivo da un momento frenetico, perché la sera prima eravamo stati ad attacchinare i manifesti del concerto che ci sarebbe stato il giorno dopo fuori dalle mura di Rebibbia. Poi lo shock di ritrovarsi dentro Rebibbia, in una realtà che comunque, nonostante poi la radio sul tema del carcere si spende molto, quindi è una realtà ben presente, però è una realtà completamente distaccata dalla società, e quindi viverla da dentro ti fa capire tante cose, tante dinamiche. Mi sono ritrovato poi, ecco, dalla frenesia dell'occupazione, chiuso dentro una cella, per cui l'ora d'aria io la passavo a camminare come un pazzo intorno al campo di calcio dell'esterno, perché tra l'altro non sapevo per quanto sarebbe stato, quando sarebbe stato fissato il processo, che cosa sarebbe successo. La prospettiva per detenzione di ordigni incendiari era più di 2 anni di carcere. Poi il pubblico ministero durante il processo ha chiesto 1 anno e 4 mesi. Non è un gioco, insomma. Ed è stato un momento importante, come dicevo, traumatico, perché poi io dopo comunque quell'esperienza ho lasciato l'università. Non so cosa è scattato dentro, facevo pure volontariato al Don Guanella femminile, pure quello l'ho lasciato. Quindi diciamo che ha scombussolato, per non parlare della mia famiglia, perché comunque la mia famiglia si è subita pure 2 perquisizioni domestiche in 2 diverse occasioni a distanza di anni. Le perquisizioni di notte a casa, la prima volta perché comunque vivevo ancora dai miei, e quella dopo perché comunque c'era ancora la residenza lì. Quindi ti rendi conto che sì, tu fai le tue scelte e ne paghi le conseguenze, però anche chi ti sta intorno. Questo è molto pesante. Tanto è vero che tu poi hai scritto nel libro che quell'esperienza ti ha fatto dire adesso devo provare nella mia vita a non tornarci mai più, cioè comunque a compiere delle scelte che non ti riconducano nella stessa dinamica per cui tu finisci, anche spesso immotivatamente, ingiustificatamente, come spesso succede anche a tantissime compagne e compagni di Dana, no? Nel senso, ci stanno tante persone che comunque continuano a pagare dei prezzi altissimi per dei motivi che veramente uno si domanda, ci volete veramente tanto male? Di devastazione e saccheggio, basterebbe già solo quello. Sì, esattamente. con una grossa transizione dagli anni giovanili agli anni invece più recenti, le pagine del Teatro Valle. Diciamo che il Teatro Valle è stato anche per me un momento molto importante, non ho vissuto dall'interno ma che ho frequentato. Tu hai raccontato poi nel libro alcune serate emblematiche in cui ci si è ritrovati. Posso dire di averci suonato anch'io al Teatro Valle in quei giorni con i 100 organetti, una serata con soldi, due violoncelli e 200 organetti intorno. E quella fu la prima volta che con un taxi dal Teatro Valle, Sollima, inviò 5 organetti e un tamburello al vecchio Scoop, perché c'era una giornata partita e venimmo a suonare la primissima volta che vidi Scoop. Quello che a me premeva era questa importanza, no, del raccontare un po' quegli anni. Sono stati anni belli, forse anche molto entusiasmanti, per molte generazioni soprattutto. Tu fai una descrizione di quel ricettacolo umano che invece nelle pagine precedenti, in altre occupazioni, nonostante c'era la gioia, l'entusiasmo, è stato leggermente più parco di definizioni positive. Ecco, e poi l'accentuata diversificazione nella quale il linguaggio e la creatività nelle forme di lotta hanno un peso determinante, attira l'interesse di tanti autorevoli teste politiche e tanti talenti artistici. È una pratica di lotta ampia, variegata e disciplinata. Trascorri lì, vabbè, capodanni, cene, ma anche assemblee. E soprattutto non si aspettava, Pedingo, che è il nome che usi per il testo, che una creatura del genere sarebbe dissolta così a partire da basi che parevano molto solide. Perché la fine, diciamo, è stata il Teatro Valle un po' una mazzata un po' per tutti quanti, me compreso, lo vivevo poi da molto lontano, però era qualcosa anche di nuovo. E su questo mi ricollego dicendo che i luoghi della socialità dell'infanzia, i racconti di Monteverde, sono gli stessi miei a distanza di tanti anni. Questo vuol dire, tra le tante cose positive, che qualcosa si mantiene, ma tra le tante cose negative è che ben poco poi invece di nuovo si crea. In tanti quartieri si fatica a trovare momenti dove socializzare, e questa cosa a me mi ha sorpreso molto. Il Teatro Valle per tanti aspetti sembrava poter aprire una stagione dedicata a questo aspetto. Invece c'è stato un epilogo che, nonostante la differenza che tu descrivi, che vedi la novità della tipologia di persone, della tipologia di composizione, di lotte, di spinta, è stata una fine che poi è stata invece comunque abbastanza simile ad altre esperienze occupazionali in cui c'era meno risalto, diciamo, anche cittadino. Un commento e anche un racconto di quei giorni, perché insomma ci tengo. Il Valle, come scrivo, è stata l'ultima esperienza collettiva a entusiasmarmi, perché comunque vedevo le pratiche delle occupazioni dei centri sociali in cui avevo militato, però portate avanti da artisti, che secondo me è una delle novità più belle di questi ultimi anni, le occupazioni portate avanti da artisti, perché questo binomio arte e politica secondo me è molto stimolante, molto creativo e può portare secondo me bei risultati. Le assemblee mi piacevano perché tutti parlavano pure bene, magari uno, sai, era proprio stimolante. E poi insomma c'erano pure nomi autorevoli che sostenevano quell'occupazione. Poi quando si è deciso di lasciarlo, chiaramente è stato un colpo, però poi ripensandoci è chiaro che non poteva neanche proseguire così, perché per 3 anni questi hanno tenuto il più antico teatro della città. Era nata inizialmente con un'occupazione simbolica di 3 giorni, l'hanno portata avanti per 3 anni. Mi piaceva quell'ambiente, per cui il gruppo cinema mi ha stimolato parecchio, la trasmissione in radio, perché si è creata questa trasmissione settimanale con gli occupanti e le occupanti del Valle, che era un bel ricettacolo di creatività, di stimoli, perché è stata la stagione delle occupazioni dei teatri e dei cinema, no? Sempre per la vertenza dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, un nodo irrisolto che ci portiamo dietro. E poi c'erano momenti anche creativi, si apriva sempre con quell'estratto di Raphael Spragelburg, la cui frase finale campeggiava nello striscione del Valle, ah com'è triste la prudenza. Si iniziava con quell'estratto recitato ogni volta da una voce diversa, e poi anche momenti di incontro con gli artisti e le artiste che si sarebbero poi esibiti in quell'occupazione, che è diventata a un certo punto un fulcro a Roma si andava al Valle perché c'erano artisti internazionali, c'erano delle file all'ingresso incredibili che giravano tutto intorno all'isolato. Poi con questa disciplina per cui era tenuto con estrema cura quello spazio, anche questo dimostra anche la maturità di chi ha portato avanti questa lotta. Veramente è stata un'esperienza notevole, anche formativa, mi ha dato tanto, in cui ho speso anche tanto appunto per questo ciclo di quasi 2 anni di trasmissione che abbiamo portato avanti. Beh, una cosa molto diversa ma simile per certi versi è stata l'occupazione temporanea del Globe che c'è stata. Sicuramente la disciplina degli artisti nell'occupazione, esatto, è encomiabile. Sì, veramente, sì, sì. Veramente sì. Devo dire che al di là dell'esperienza del Valle, quello che è stato interessante, quello che dicevi tu, no? Ci sono delle vertenze, ci sono delle istanze, ci sono delle lotte, delle battaglie che le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo continuano a fare perché le condizioni di lavoro sono delle condizioni di lavoro estremamente precarie e difficili. E secondo me una cosa molto interessante che è successa al Globe intanto è che la dichiarazione principale è stata quella del non solo per noi ma per tutte e tutti. Cioè la battaglia sul precariato non riguarda esclusivamente le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, ma riguarda tutte e tutti noi indistintamente. E che la battaglia sul reddito di base incondizionato universale che hanno scelto di chiedere di sperimentare su di loro, cioè ai tavoli di discussione con le istituzioni che si sono tenuti, anche quando è arrivato Franceschini al Globe, gli ASR hanno chiesto di provare a fare una sperimentazione di reddito di base universale incondizionato proprio su di loro, cioè di fare una sperimentazione nuova e di vedere, no, dice, non lo puoi fare su tutta la popolazione, provate a farlo su di noi. Quindi anche uno stimolo a un ragionamento anche diverso rispetto a battaglie precedenti e soprattutto una trasversalità che io ho notato, almeno al Globe, perché me lo sono vissuto un po' più da vicino. Poi, insomma, lo sai, io sono un attivista militante a scoppio ritardato, perché ci sono arrivata tardi nella vita. Ho fatto prima altre cose e poi sono arrivata alla militanza molto grande, in anzianitudine. E mi sono vissuta, proprio perché insomma molte delle persone che l'hanno animato sono persone, oltre a compagni e compagni, sono proprio amicizie profonde. E una delle cose che per me è stata estremamente interessante anche all'interno di quel percorso è stata l'attenzione che c'è stata rispetto al sessismo anche all'interno del lavoro dello spettacolo e quanta delicatezza, che metodologia è stata usata nel fare le assemblee, che profondità ha dato il campo innocente a tutte le discussioni che ci sono state. Mi vengono i brividi solo a pensare, no, dico sul serio, perché a me ha toccato profondamente quel tipo di percorso, a partire dalle domande su di sé. E tutto questo mi ha fatto riflettere, no, su quanto sia difficile anche all'interno degli spazi occupati che si dicono antisessisti. In realtà tanta mascolinità tossica ancora circola, anima i nostri spazi, quanto è difficile per noi donne e anche per soggettività non cis, etero, bianche a potersi esprimere e poter essere anche attive, perché poi i ruoli ci sono. Uno può pure dire che noi siamo sempre a cerchio, ma in realtà i ruoli ci sono, cioè è inutile nascondersi dietro dei falsi miti, in realtà i ruoli ci sono. E quindi anche quei ruoli, penso anche solo banalmente al numero di maschi all'interno di un'assemblea rispetto al numero di femmine all'interno di un'assemblea, per dirne una. E spesso mi chiedo come mai ancora adesso, nonostante tutti i movimenti, non una di meno, il transfemminismo, quanta strada è stata fatta. Cioè, tu hai raccontato anche dei percorsi dei collettivi femministi all'interno sia della radio che della pirateria e di quanto fossero partecipati questi collettivi. E pensare che 20 anni, 30 anni dopo ancora si faccia tanta fatica ad avere a quota rosa, vogliamo chiamare così, però in realtà non è questo, ma in realtà è avere un protagonismo, avere una voce, avere rappresentanza, esserci, è molto più faticoso, sempre perché anche all'interno degli spazi il lavoro di cura continua ad essere quello femminile. Per esempio, io adesso devo andare dai miei figli, nel senso, è vero, cioè, certo, molto banalmente, anche la mia capacità di donna di poter faticosamente partecipare da militante alle attività degli spazi è limitata proprio dal lavoro di cura che è delegato alle donne, che è il lavoro di cura anche proprio all'interno dello spazio. E questo è qualcosa che, parlando con le compagne, io ho notato in tutti gli spazi misti. E mi chiedo, noi in quanto donne e non uomini cis etero bianchi, dei percorsi due domande nella vita ce le stiamo facendo da sempre. E mi chiedo, forse per operare questa trasformazione, per non continuare a fare maternage nei confronti dei compagni e spiegare perché sono importanti determinate attitudini, perché parlarsi in un determinato modo, in che modo essere includenti, eccetera, eccetera, ancora si fa fatica. E si fa fatica, secondo me, dal mio punto di vista, perché determinati percorsi a livello maschile sono molto più difficili. Non so se all'interno degli spazi che tu frequentavi all'epoca c'era questa difficoltà ancora a farsi queste domande e a porsi la questione di genere all'interno degli spazi, oppure no? Beh sì, l'antisessismo rispetto a questioni come l'antirazzismo, l'antifascismo, secondo me è arrivato dopo. È molto più difficile da scardinare. Io fortunatamente ho avuto l'esperienza delle tre piraterie in cui era nato un collettivo femminista, il Colpo della Strega, che è stato formativo anche per tutti i maschietti. E quindi da questo punto di vista mi ritengo avvantaggiato. Però sì, era una difficoltà anche rispetto a molti altri spazi in cui, rispetto alla questione femminista, si poneva l'accento sul proletariato come unità indistinta, non c'era una questione di genere. È un percorso lento che tuttora continua, perché comunque noi scontiamo un patriarcato sedimentato da millenni, con un sistema del tardo capitalismo che comunque vive sul patriarcato ed è espressione anche del patriarcato. Su questo tipo di battaglie, il mio cambiamento anche rispetto alla militanza quotidiana di quando stavo nello spazio occupato autogestito, l'interesse che ho sviluppato anche grazie alle mie trasmissioni radio sul cinema e sul teatro e poi l'esperienza del Valle, secondo me la fusione tra arte e politica è importante anche su queste questioni. Il riuscire a cambiare la testa, l'immaginario, quella è una delle strade praticabili. Per il resto Roma ha anche il vantaggio di avere tanti collettivi femministi, quindi da questo punto di vista rispetto ad altre realtà i risultati si vedono, però ecco, se questo si vede anche negli spazi occupati, che dovrebbero essere teoricamente delle avanguardie culturali, sociali e politiche, vuol dire che ancora c'è tanto da fare sicuramente. Su questo io mi sento di poter dire che forse se questo libro l'hai scritto un po' anche per le persone più giovani, quindi mi sento di poter dire che sono un po' più giovane, perché ho trovato tantissime spunti e cose importanti. Meno male. Mi sento di poter dire che nelle generazioni molto più giovani di me, che trovo in alcuni spazi, vedo molta meno fatica ad affrontare il patriarcato e affrontare il sessismo. Qualcosa è stato scardinato, ovviamente. Anche quindi, se è presto, però insomma io noto come, anche rivolgendo le mie coetanee che hanno frequentato spazi a Roma e quant'altro, guardando quelli molto molto giovani, su questo mi sento di voler dire che forse gli spazi hanno iniziato a produrre qualcosa, poi vedremo dove arriveremo, ma e noi più grandi anche con loro, insomma. Pure il Pride all'interno degli spazi occupati e autogestiti, il grosso lancio del Pride che c'è stato dagli anni 90 si deve anche grazie appunto alle esperienze delle occupazioni di autogestione. Più o meno per andare verso la conclusione, una cosa che a me ha stimolato molto è proprio che l'arco narrativo copre un periodo di tempo abbastanza lungo, no? Più di 3 decenni, poi non 3 decenni qualsiasi, 3 decenni nei quali la società è cambiata tantissimo. nei primi racconti della Pantera, l'entusiasmo che si generava attorno a una cosa come poteva essere il fax da utilizzare, no? Poi invece nelle ultime pagine si arriva a presentare un lavoro che è invece tutto un lavoro di archivio digitale. 30 anni in cui però una cosa c'è sempre stata, che è la radio in qualche modo. Io sono molto curioso di sapere se tra altri 30 anni, 35, la radio avrà questo spazio. Così l'ho avuto lì perché effettivamente è un periodo di tempo molto lungo, più di 30 anni, dal fax ai social praticamente. La radio sembra un po' il comune denominatore, tanto quando racconti il tuo primo ingresso a Radio Onda Rossa, la sessione fuori dai banchi, quanto la crea il grande dei boschi. Con cui abbiamo aperto la prima trasmissione con Taglia Manicelli. Sì, tanto è, io sono una monomania che è quel film. E quindi trovarlo nel libro e come primo di apertura con la figlia di Manicelli è stato bello. Tu hai fatto una scelta in cui, oberato da tante questioni che comportava una radio autogestita, te ne volevi distaccare. Sono pagine molto intime quelle in cui racconti questo distacco, ma che poi con tutte le sollecitazioni, le manifestazioni di amicizia, di interesse e quant'altro, anche di gente che non conoscevi affatto, ti hanno spinto a continuare questa produzione. Per fortuna, aggiungo io da ascoltatore. Ecco, pensi che questo ruolo sarà così importante per te e anche per la radio nei prossimi decenni? I prossimi decenni cambia tutto così velocemente e sempre più velocemente che chissà, però è pure vero che sono nate tante web radio anche da una prospettiva autogestita e antagonista, quindi secondo me sì, continuerà ad avere questo ruolo, anche perché, come ripeto spesso, la radio ti impegna solo l'udito e quindi puoi fare altro, non è un media che ti ipnotizza come l'immagine ad esempio, e poi il fatto che coinvolge comunque chi ascolta, perché alla radio si può telefonare e andare in diretta, almeno a Onda Rossa. Sono passati tanti anni, ma Radio Onda Rossa, con grossi meriti, continua inevitabilmente ad essere poi punto di riferimento per la divulgazione, per il racconto di tante cose che anche sotto la pandemia, io penso alle testimonianze che arrivavano in diretta dai lavoratori. Anche gli approfondimenti che sono stati utili per capire tante cose. Sì, gli approfondimenti, quando in piena pandemia le trasmissioni di Burgio, ad esempio, ci eravamo a sentire, esatto, veramente nella confusione in generale dove sbattere la testa. Ecco, nonostante tutte le fatiche, comunque questo ruolo, che è un ruolo poi alla fine fondamentale per organizzarsi e per conoscere, ecco, da tutti gli aspetti, sia l'attualità sanitaria, geografico, storica, italiana, ma anche poi dell'arte, che è fondamentale, se no non ha poi tutta questa realtà geografico-storica, non riusciamo a raccontarla. E poi comunque la radio, essendo espressione del movimento, segue le fasi del movimento, per cui se c'è una fase di inondazione, come è stata la Pantera, la radio chiaramente esplode. Quando ci sono le fasi invece di risacca, chiaramente quando il movimento esprime difficoltà, tutto questo si riverbera sulla radio, che è fatta da noi. Persone, cioè. Continua ad avere questo ruolo, non so quanto riesca a essere incisivo nella società nel complesso, al di là di quello che siamo noi, perché oggi è vero che l'informazione te la puoi cercare ovunque, ci sono tanti strumenti, però è anche vero che l'importante rispetto al flusso enorme l'informazione che abbiamo è la capacità critica, e questo secondo me è il ruolo che mantiene e deve mantenere una radio autogestita come Radio Onda Rossa, la capacità critica di saper leggere le notizie. È tutto vero, e gli approfondimenti al di là adesso della radio ci sono anche proprio podcast, che secondo me sono delle risorse inestimabili, perché sì, ti danno il tempo dell'ascolto, la possibilità di ritornarci sopra, sempre con la modalità radio, quindi quello che dicevi tu prima dell'ascolto, che puoi fare anche altre cose e delle volte anche solo quello, cioè quando c'è un approfondimento o delle storie belle, interessanti, è molto più piacevole fermarsi 2 minuti oppure in macchina, nella disperazione del traffico, ascoltarsi un podcast, sì, sono cose che insomma servono, sono delle implementazioni che la radio ha avuto e che secondo me sono estremamente importanti. In questo interventi, l'importanza dell'archivio, sì, soprattutto di teatro, perché sì, insomma comunque la trasmissione ha messo insieme quasi 800 tra spettacoli integrali, estratti, letture, quindi vanno dagli spettacoli più piccoli ai grossi nomi del teatro, ci si trova di tutto. Quello che si è mosso soprattutto a Roma più o meno è rappresentato, ho fatto comunque un lavoro di ricerca, io andavo a vedermi gli spettacoli. La mia passione è nata parallelamente a questa avventura radiofonica. Ci sono quelle tre pagine in cui si esprime proprio quanto dalle esperienze delle occupazioni, dalle esperienze da radio, poi c'è stato, grazie a quello, la possibilità di farne una professione effettiva. Quindi l'importanza anche della formazione ricevuta in questi luoghi e degli stimoli soprattutto ricevuti in questi luoghi. E quindi anche come da lì poi, non rimanendo fermo, si aprono porte anche lavorative inaspettate. Ne racconti tanti, poi hai fatto tante cose, però insomma la cosa che forse si fa difficoltà anche quando ci si approccia a questi mondi è proprio il fatto che anche io, no, posso dire che qua dentro sono cresciuto e mi ha dato la possibilità lavorativa anche fuori che altrimenti non avrei mai trovato, ed è una possibilità che purtroppo di sviluppo umano, personale, interpersonale ci è negata poi nella nostra società in qualche modo e sei costretto a doverti ricercare. Poi, ripensando, più di 20 anni a Radio Onda Rossa, quindi io devo molto a Radio Onda Rossa, ho dato molto a Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa ha dato tanto a me. Scusate, devo andare dalla famiglia. Grazie. Grazie. Grazie a te.